Al Tour con Ivan Basso. Oggi 13ª tappa interlocutoria del Tour de France con arrivo a Lourdes, vittoria del norvegese Thor Hushovd. Vöcler conserva la maglia gialla. Abbiamo sentito il nostro inviato speciale al Tour, Ivan Basso. Buongiorno Ivan, oggi siete arrivati a Lourdes, ma la vera battaglia sarà invece domani a Plateau de Bale, dove Pantani fece una grande impresa battendo Ulrich. Molti si aspettano che tu attacchi. È difficile dire ora come sarà la corsa di domani. È chiaro che domani è un giorno importantissimo nell'economia della classifica generale di questo tour, e quindi se avrò le gambe e mi troverò in una situazione favorevole, devo attaccare, su questo non c'è dubbio. Però, come spesso accade, tutto quello che si programma il giorno prima non è semplice da realizzare il giorno dopo. Contador è apparso in difficoltà. Non pensi che sia il momento di dargli un colpo del KO, se non definitivo, almeno sostanzioso? Io credo che ci sono almeno ancora 8 atleti che possono lottare per la maglia gialla, quindi Contador è sicuramente uno di questi 8, ma non penso solo a lui, penso ai due fratelli Schleck, a Cadel Evans e a tutti gli altri. Quindi in questo momento nella mia testa c'è quello di cercare di portare il miglior basso possibile domani nella seconda parte della tappa e cogliere l'attimo e cercare di prendere il momento giusto e staccare tutti, però non è una cosa semplice da realizzare. Ecco, questo sembra un Tour de France apertissimo, da tempo non si vedevano tante possibili maglie gialle. Ma guardi, abbiamo fatto una tappa di montagna, ne mancano altre 4, quindi come puoi immaginare, con 4 tappe di montagna e una cronometro finale tutto può accadere. Ancora grazie a Ivan Basso ed è tutto per questo appuntamento speciale con il Tour de France. Un augurio di buona giornata da Paolo Panceri.